Dunque, 21esima edizione, ci sono alcune cose, la partitura è la medesima perché funziona, per cui sport, cultura e musica, 4 giorni di divertimento, i numeri e i partecipanti sono in linea con le nostre aspettative, per cui 174 al torneo di calcio, sono aumentate le rappresentative straniere, è aumentata la partecipazione femminile attraverso anche un progetto specifico che è il progetto Goal, un progetto portato avanti da una nostra squadra partecipante di Bologna, la Brigata della Pace, che ha coinvolto moltissime realtà estere, anche dall'Ucraina piuttosto che dalla Turchia, dal Portogallo, dalla Serbia. Noi siamo molto soddisfatti. Le cose salienti di quest'anno sono anche una partnership con Radio Città Fujiko, che porterà dei rifugiati che faranno i reporter sui campi per raccontare le storie. Ci sarà un premio giovedì sera dato a Ilaria Cucchi, per cui avremo Ilaria Cucchi come nostra ospite. E poi il venerdì, visto che l'Associazione Italiana Calciatori da tanto che viene mondiale, ci sarà la presenza di Damiano Tommasi e organizzeremo ad hoc anche all'interno del torneo una partita con telecronaca di Carlo Paris. 2500 partecipanti, 2000 al torneo di calcio e 500 agli altri tornei, pallavolo, basket, rugby e così via. 4000 persone che si godranno le giornate da giovedì a sabato e più dopo il pubblico serale per i concerti. È un'esperienza che vuole essere il percorso o iniziale o finale di percorsi che poi nelle varie città, nelle varie situazioni vengono portati avanti tutto l'anno, per cui sì, Bologna abbiamo per esempio il torneo di Mondi, in molte altre realtà ci sono Palermo Mediterraneo antirazzista, a Genova un calcio al razzismo, ci sono moltissime realtà che fanno durante l'anno dei tornei prendendo spunto dai mondiali e poi ritornano ai mondiali vedendolo come evento finale o evento iniziale per chi da là vuole cominciare un'esperienza anche nel sociale attraverso lo sport. La cronaca di questi giorni diventa un momento fondamentale? Diventa sempre più fondamentale, noi preferiremmo di no, ma purtroppo è sempre più il problema del razzismo e della discriminazione, è un problema crescente. Noi cerchiamo di risolverlo attraverso un momento concreto in cui facciamo vedere che tutti possono stare insieme, che con delle regole flessibili attraverso lo sport si può tranquillamente convivere attraverso culture e religioni differenti, ed è ancora necessaria la presenza dei mondiali antirazzisti per mettere il punto e ribadire che anche noi dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo coinvolgere ed educare il maggior numero di persone possibili. Per fortuna ai mondiali antirazzisti il pubblico è sempre molto giovane, per cui riusciamo anche a fare, come dire, una trasmissione anche di valori.